Le tue linee si stanno rompendo, frasi abissali che non trovano la via. La via sollevata e ingarbugliata cercando di sedurre la tua ragazza, cercando di esprimere la tua parola, cercando di guidare la tua strada. La tua linea si stanno rompendo per formare acronimi di vita, per formare discendenza alla grande, per formare la tua linea futura. Frasi abissali che non trovano la via, la via sollevata e ingarbugliata, trasmettendo passaggi surreali, trasmettendo messaggi negli echi, trasmettendo la tua sensazione nel piangere, in lacrime di acqua. Cuore palpitanti di vie che rompano il tessuto senza lacerare la tastiera. Cuore palpitante nel suo sentimento che rompe le sue idee senza strappare il loro contenuto. Le tue linee si stanno rompendo per formare acronimi di vita, per formare discendenza alla grande, per formare le tue linee future. Frasi abissali che non trovano la via, la via sollevata, ingarbugliata, trasmettendo passaggi surreali, trasmettendo messaggi negli echi, trasmettendo la tua sensazione nel piangere, in lacrime di acqua. Frasi abissali che non trovano la via sollevata, ingarbugliata, cercando di sedurre la tua ragazza, cercando di esprimere la tua parola, cercando di guidare la tua strada. Giulio Cesare, il Cavaliere.